1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:17 minuti. Forza, cari italiani, cari debosciati miei, è il momento di darsi da fare come tutti i giorni prima delle agognate vacanze, se arriveranno. Per me arriveranno tra 8 albe, tra la fine della prossima settimana, insomma. Io ma conto da lunedì al venerdì, conto le sveglie alle 5, quindi ne mancano 8 e poi sono libero dalla sveglia atroce e infame. E voi? Allora, oggi parleremo di che cosa? Quello che sta succedendo in Medio Oriente. E lo so che su questo basta dire, come è successo ieri, una parola e subito ti accusano di essere filo di qua, filo di là. Io non sono, starò in mezzo, ma ho chiamato due persone che la pensano in maniera diametralmente opposta. Avremo David Parenzo, che già apprezzate molto alla Zanzara e criticate molto, e lui è certamente filo israeliano. E avremo Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento Europeo, certamente filo palestinese, e loro ci esporranno le loro teorie. Purtroppo sullo sfondo il dato certo sono i morti e il dato certo sono una tregua che abbiamo sentito non ci sarà molto probabilmente, nonostante quello che sono gli sforzi diplomatici soprattutto dell'Egitto. E avremo ospite anche il vice ministro degli esteri Benedetto Della Vedova, nel giorno in cui il nostro ministro degli esteri Federica Mogherini è proprio a Tel Aviv per cercare di vedere, insomma, di riannodare le fila di un discorso che un po' è degenerato nella guerra vera e propria. Parleremo anche di politica, parleremo del caso Galan che è stato rinviato, Galan in ospedale, ma insomma tutto questo più avanti. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo martedì 15 luglio, intanto alcuni titoli, poi vado subito alle notizie. Il Sole 24 Ore apre su allarme Europa, l'industria è ferma. Mentre Draghi, il monito di Draghi all'Italia, non annacquate le regole. Il presidente della BCE dice le riforme contano più della flessibilità. Per la politica, il messaggero, sale il debito, Draghi riforme, Repubblica, Renzi ai 5 Stelle sull'immunità pronti a cambiare, La Stampa, riforme, Renzi detta i tempi. Mentre il Fatto Quotidiano titola così: il Senato si suicida. Leggo anche questo titolo di Libero: i partiti sono tutti falliti, parte la prima puntata di un'inchiesta sui conti dei partiti. Tecnicamente, scrive Libero in prima pagina, dovrebbero portare i conti in tribunale. Ma voglio subito partire, perché oggi le segnalazioni sono tante. Voglio iniziare da un'intervista che oggi in esclusiva a Repubblica, a pagina 23, intervista, la prima volta che parla, Luigi Preiti, 49 anni, forse ve lo ricordate, colui che sparò fuori da Palazzo Chigi, ferendo gravemente il brigadiere Giuseppe Giangrande, ferendo un altro militare, Francesco Negri, ferendo dunque due carabinieri. Parla per la prima volta dal carcere, l'intervista è di Paolo Berizzi attraverso gli avvocati di Luigi Preiti. Titolo: vi prego perdonatemi, sparai a Palazzo Chigi perché ero drogato e depresso per la crisi. Allora ero depresso, la mia vita era un disastro, senza lavoro, senza soldi, non potevo vedere mio figlio. Ecco, ma torniamo a quel 28 aprile, cosa le è preso? Non lo so nemmeno io, ero depresso e disperato, un uomo senza lavoro perde la dignità, certi stati d'animo alla lunga ti portano a gesti estremi. L'idea di andare a Roma a sparare è nata dalla disperazione, dalla consapevolezza che sarei diventato, anzi lo ero già, un'altra vittima della crisi, un altro numero. Cresce il numero dei disoccupati, ripetevano i media, ma tutto è rimasto uguale. Lei ha detto che voleva colpire i politici. Chi in particolare? Li volevo colpire, ma non sapevo bene in che modo, non avevo un piano. I nomi? Berlusconi, Bersani, Monti, ognuno aveva delle colpe. Anche ricordo il governo Prodi, 4 governi in una legislatura. A un certo punto Berizzi dice: senta, lasci perdere le analisi politiche. Sta di fatto, se ce l'aveva coi politici, perché sparare ai carabinieri? Come ho detto ai magistrati, risponde Preiti, non ce l'avevo coi carabinieri, mi sono fatto prendere dal panico, non sono abituato a certe tensioni e si è trattato di un fatto imponderabile. Ripete a Giuseppe Giangrande: ho sempre detto che se potessi mi sostituirei a lui e mi farei carico della sua sofferenza, prego ogni giorno che possa guarire presto. Ho scritto a sua figlia: quello che ho fatto è assurdo, la disperazione ti porta a fare cose pazzesche. Poi dice: ero drogato, avevo tirato cocaina 2 giorni prima di partire per Roma, nell'ultimo mese ne avevo assunte diverse dosi pur non avendone mai fatto uso prima, mi faceva stare un po' meglio, poi ripiombavo in uno stato depressivo ancora più forte. E alla domanda, scusi, se non lavorava come faceva a comprare la droga? Qualcuno qualche volta riusciva a fare la giornata in cantiere e mi pagavano e compravo così piccole dosi. Il sunto dell'intervista è proprio nel titolo: sono pentito ma non si può tornare indietro, vi prego, perdonatemi. Così Luigi Preiti parla per la prima volta, l'attentatore che ha ridotto in fin di vita il brigadiere Giangrande. Un'altra intervista, o meglio un colloquio molto breve, lo fa Paolo Crecchi sul Secolo XIX ed è riguardante il naufragio della Concordia. Per la prima volta Paolo Crecchi e il Secolo XIX riescono a raggiungere il timoniere, colui che il comandante Francesco Schettino nei vari processi ha additato come il vero autore di questo naufragio, perché dice Schettino nelle varie testimonianze: io dicevo al timoniere di virare a sinistra per evitare la scodata degli scogli a poppa e dopo, e lui invece prima mi ha obbedito e poi è andato dall'altra parte, vorrei sapere perché. E allora questo timoniere, che è un marinaio indonesiano, si chiama Jacob Rusli Bin, ammette al telefono con il giornalista del Secolo XIX che vorrebbe tornare al Giglio per vedere galleggiare ancora una volta, come è successo ieri, la Concordia. Ma poi, frasi smozzicate, dice: io ho paura, non voglio mai più mettere piede su una nave. Viene raggiunto in una telefonata a Giacarta. Non ho paura tanto delle minacce, voglio solo dimenticare, non mettere mai più piede su una nave, non ce la faccio a ricordare, mi fa troppo male ricordare tutti quei morti. Ovviamente non chiarisce la questione della manovra, perché Paolo Crecchi racconta, sono poche frasi quelle che racconta al telefono. Dice: nello spazio di una sera ho perduto tutto, il mio lavoro, i miei progetti, la salute, non riesco più a dormire, ho gli incubi, da quel 13 gennaio non salgo più su una nave e oggi lavoro come edile. È in fuga dal processo, però questa è la verità, perché è stato rintracciato a grande fatica in Indonesia, ma fino a questo momento in Italia non ha messo assolutamente più piede. Per quel che riguarda invece l'economia, poi vedremo quello che dice l'Istat, i dati terribili sulla povertà. Intanto un altro dato che il Messaggero mette a pagina 2 è un dato molto emblematico, quello del debito pubblico italiano. Debito pubblico italiano che è arrivato ad una soglia record a maggio, toccata 2.166 miliardi di euro di debito. Il nuovo record per il debito, sono a rischio dunque gli obiettivi del 2014, ma il Messaggero dice, assicura Matteo Renzi il Premier, non metterò nuove tasse. Così Renzi: non aumenterò le tasse. Pagina 3 del Messaggero. L'articolo di Alberto Gentili reagisce con un'alzata di spalle: gli indicatori economici tutti negativi mi fanno la guerra, ma non mi fermeranno. Vado avanti, non mi lascio impressionare dai dati che ogni giorno sforna qualche ufficio studi di turno. Non metterò nuove tasse, la crescita si garantisce facendo le riforme, cambiando la politica europea, battendo la palude della burocrazia, non certo facendo manovre correttive. L'ottimismo di Renzi e l'alzata di spalle fa un po' a pugni, racconta il Messaggero, con l'aria che si respira, il tesoro, dove non si respira certo l'ottimismo, caro al Premier, visto che per domani il ministro Padoan ha chiamato a raccolta viceministri e sottosegretari per fare il punto e gettare le basi della legge di stabilità. Ma certo, non c'è lo stesso ottimismo che professa Matteo Renzi. Mentre c'è un altro ottimismo, ma è la 150esima volta che ci si prova, racconta il Corriere della Sera con Andrea Ducci a pagina 3, lo Stato ci riprova, ma bisognerebbe dire ci riprova, mette in vendita palazzi ed ex conventi. Il Demanio cede all'asta 15 beni immobiliari per 11 milioni. Volete comprare una ex caserma in provincia di Imperia? Un paio di fabbricati e il terreno annesso, base d'asta 430.000 euro? Accomodatevi! Oppure per 494.000 euro potete presentare un'offerta per un edificio intero di 15 appartamenti in una zona centrale a Trieste. O ancora l'immobile più costoso, periferia sud di Verona, vicino alla zona artigianale, un'area di 3.000 metri quadri e un capannone, valore 1.420.000 euro. E ancora l'ex base missilistica di Ceneselli, in provincia di Rovigo. Chi l'acquista dovrà farsi carico però della bonifica di terreni e rimozione dei beni mobili abbandonati dai militari sul terreno. L'area però è grande, 8 ettari, 42 fabbricati, per 1.350.000 euro viene via. E allora ancora tra Firenze, Spoleto, due palazzine ad uso ufficio a Caravaggio in provincia di Bergamo, è prevista la vendita all'incanto dell'ex casa del Fascio. Tre piani, 1.200 metri di superficie, non c'è scritto il prezzo, ma insomma, avanti, signore e signori, venghino, lo Stato vende. Ex palazzi, no, è meglio, ex conventi, palazzi, ex caserme. Comprate, comprate, che il debito pubblico va abbattuto. Ora andiamo in pubblicità. Alessandro Milan, pisellino dell'informazione. Vabbè, ricordo anche questo, caro abbraccio anche a te, caro ascoltatore, allora... Le riforme, voi capirete che ieri quando ci hanno imbesuito un po' tutti i mezzi di informazione a dire che iniziava la settimana decisiva per, e io dico la 63esima ovviamente, settimana decisiva per la riforma elettorale per esempio o per l'abolizione delle province, quelle che io conto ufficialmente, quella del Senato non la conto neppure. Beh, insomma, io sobbalzavo sulla sedia, un po' sorridevo. Oggi prendi i giornali, perché raccontavo che in realtà la riforma del Senato ci vogliono quattro letture, Camera, Senato, quindi voglio dire, ma è decisiva di che? Ma comunque oggi basta aprire i giornali e trovare già questo titolo. Riforme in aula, tempi più lunghi. Ma come? Questo è il titolo del Sole 24 Ore, per esempio a pagina 6. Ma come? Ieri era decisiva e oggi già i tempi sono più lunghi. Oppure il nuovo cronoprogramma di Renzi su Repubblica. La legge elettorale entro il 2014. E poi Senato e il resto. Per carità, non è una critica, ma è vero che la palude, come la vogliamo chiamare, le riforme sono... tutti iter molto molto complessi, molto lunghi, non facili da portare a casa in 4-4-8. In più, come racconta nel retroscena quotidiano sul Corriere della Sera Maria Teresa Meli, riguardo a Renzi e i renziani, a pagina 7 del Corriere ci sono i frenatori. Ormai questa è la parola che più di palude romana viene utilizzata da Renzi. I frenatori sono coloro che si mettono di traverso alle riforme. Quello che possono fare, assicura Renzi, è al limite cercare di rallentare i lavori. I frenatori, come li chiama lui, possono aspirare a raggiungere questo obiettivo, che a suo giudizio non sarebbe affatto un bene per il paese, ma niente di più. Vogliono mandarmi sotto? Lo facciano, poi vediamo che succede. Ma è così. Per dire, racconta Maria Teresa Meli, è una minaccia retorica, perché in realtà, come si è detto, Renzi è convinto di mandare la palla in buca. Questa è la nuova espressione, il titolo è questo, del retroscena, manderemo la palla in buca. Anche perché, assicura Renzi, è forte di questo patto del Nazareno. Nonostante le resistenze interne di Forza Italia, racconta sempre ai suoi Renzi, l'intesa con Silvio Berlusconi è intoccabile, offro un patto costituente. Questo è il titolo del retroscena di Repubblica, pagina 2-3, la firma di Francesco Bei e Tommaso Ciriaco. Il premier avverte, l'intesa con Silvio non si tocca. Questo nonostante ci siano appunto delle tensioni all'interno di Forza Italia. Per esempio Brunetta, capogruppo alla Camera, ha detto: un Berlusconi riformatore è anche un Berlusconi innocente. Le due cose vanno insieme e sappiamo che venerdì pende su Berlusconi il giudizio di appello per la vicenda Ruby. Pare che proprio venerdì possa già arrivare il giudizio. Oggi credo sia il giorno della difesa, poi gli ultimi atti. Credo venerdì stesso al mattino i giudici in camera di consiglio e forse pare anche venerdì il giudizio in appello, anche se tutti i giornali fanno sapere che poi ci sarà eventualmente la Cassazione, quindi il terzo grado di giudizio, e per questo ci vuole almeno un anno, quindi un giudizio definitivo ci sarà tra un anno, forse, a meno che non ci siano al solito rinvii eccetera. E quindi insomma sappiamo che gli iter processuali sono complicati. Dal punto di vista invece della legge elettorale, come detto, Renzi scrive al Movimento 5 Stelle e dice: facciamo entro quest'anno la legge elettorale e poi il Senato e il referendum. In una lettera firmata dal PD al Movimento 5 Stelle, firmata Alessandra, Debora, Matteo e Roberto, che poi sarebbero Alessandra Moretti, Debora Serracchiani, Matteo Renzi e Roberto Speranza. Hanno firmato così la lettera mandata quella del Movimento 5 Stelle: Alessandra, Debora, Matteo, Roberto. Il Movimento 5 Stelle reagisce con c'è anche un'intervista, credo, a Buccarella, al senatore Buccarella, mi sembra un po' una perdita di tempo, mi sembra un po' una melina da parte di Renzi. Stiamo a vedere. Poi ci sono quelli che si lamentano, come Mario Mauro, che fa un'intervista al Fatto Quotidiano a pagina 3 e dice: ormai è come Putin, Renzi fa le cose da mincul pop. C'è Berlusconi che oggi terrà finalmente una riunione dei gruppi a Camera e Senato, e dice il giornale: la linea è dettata, Berlusconi isola la fronda, oggi riunione chiave su riforme e Italicum. C'è anche un fastidio per la lettera di Fitto, che ieri dicevamo Fitto ha scritto a Berlusconi. Fitto, sapete, è uno dei maggiori critici di questa riforma, a dire: se abbiamo ipnotizzati da Renzi. E il giornale racconta del fastidio di Berlusconi. Dunque un Berlusconi che cerca di tenere il punto di questo accordo e isolare la fronda. Ora capite che con tutte queste notizie che quotidianamente riempiono le pagine dei giornali, di un passetto avanti, un passetto indietro, un passetto a destra, un passetto a sinistra, un passetto di lato, come un tango stantio delle riforme, quando uno poi legge che viene messa a pagina 13, 14, 15 dei giornali la notizia che interessa agli italiani molto più della riforma del Senato, uno si arrabbia un pochettino. E qual è la notizia? La notizia la dà l'Istat. Mentre si discute appunto di riforme, i poveri in Italia sono raddoppiati in 4 anni. Questo è il titolo che leggo, per esempio, dal Corriere della Sera, ma tutti i giornali dedicano pagine a questa analisi dell'Istat. Avvenire titola, per esempio, in prima pagina: fabbrica di poveri. Nell'Italia del 2013 100.000 in più ogni mese. È emergenza minori. Le associazioni dicono bisogna agire. L'Istat dice oggi sono oltre 6 milioni i poveri. Sono persone, tutti che fanno analisi, persone che non riescono ad arrivare a volte alla prima decade del mese, famiglie, in genere la coppia con 2 figli minori e spese sotto i 1.500 euro. Così è la fotografia, ovviamente molto approssimativa, delle famiglie che cadono nell'indigenza, come racconta Valentina Conte in un'analisi su Repubblica a pagina 11. Avvenire dedica appunto una pagina a questo: l'Italia della povertà assoluta. I più colpiti sono famiglie e minori. C'è anche un'intervista a Cristiano Gori, che è docente alla Cattolica di Milano, e dice, intervistato da Francesco Riccardi su Avvenire: il vero nodo è uno solo, scegliere la lotta alla povertà come punto qualificante del programma di governo. Finché l'esecutivo non compie questa scelta, la situazione può solo peggiorare. È una vera e propria esplosione che deve avvenire. 1.200.000 persone in più cadute in povertà assoluta in un anno appena. Sì, è una crescita fortissima, conferma il professor Gori. L'accelerazione di un fenomeno in atto da tempo. Prima della crisi eravamo al 4,4% di incidenza della povertà assoluta. Nel 2013 abbiamo toccato il 9,9%, cioè un punto oltre il doppio, con un'esplosione soprattutto al sud, ma una forte crescita anche al nord, un aumento che ha travolto gli argini colpendo anche fasce di reddito che finora erano al riparo. Il governo faccia una priorità su questo e fa anche una stima, Gori dice, basterebbero subito investimenti di 1,5 miliardi come svolta cruciale la lotta alla povertà come punto qualificante del programma di governo. Dati veramente impressionanti. Ora Mauro Meazza del Sole 24 Ore, buongiorno, eccoci qua. Questo buongiorno Alessandro. Fa buongiorno. Un po' il pari all'apertura del Sole 24 Ore di ieri, no? Quando si misurava la crisi. E ora io ti chiedo adesso, noi spesso scherziamo eccetera, ma tra le paginate dedicate al passettino in avanti sulle riforme che arriveranno, se va bene, tra 2 anni, 1 anno e mezzo eccetera, e questi dati qui, ora gli italiani a cosa guardano secondo te? Ma probabilmente mi viene con una ironia un po' amara che chi sempre più si ritrova o in quella soglia descritta dall'Istat o vicino a quella soglia, forse poi i giornali li guardi anche un po' meno, e questo però dispiace. Del resto, se vedi la nostra invece, no, la nostra prima pagina sul Sole 24 Ore, noi lanciamo questo allarme Europa perché c'è un problema anche di produzione industriale in tutta Europa, quindi questo diventa un problema proprio di aggancio della cosiddetta ripresa, no? Insomma, questa cosa che anche noi descriviamo un po' con una, forse con una formula non immediatamente comprensibile, ma se la produzione rallenta, evidentemente anche un recupero del benessere anche per queste persone che sono finite, stanno via via scivolando verso la povertà, diventa sempre più difficile. Questo, caro Alessandro, tanto per cominciare una mattina, segna dell'ottimismo, me lo dici. No, ma è chiaro, ma purtroppo la lettura dei giornali spesso non induce all'ottimismo, però io dico sempre ottimismo, sempre andare avanti. Certo, poi i giornali che leggo sono quelli. Ti voglio anche dire che comunque la legge di stabilità, cioè quella, insomma, la finanziaria per l'anno prossimo, quella che dovremo mettere a punto nell'autunno che verrà, ecco, già, come dire, ha bisogno di tagli di spesa per 11 miliardi, altrimenti bisognerà mettere qualche tassa. Ah, ma no, adesso Renzi, sul Messaggero ho appena letto che dice non metterò nuove tasse. Allora, noi non abbiamo motivo di dubitarne, ti segnalo che la legge di stabilità ha bisogno comunque di una robusta dote di denaro per finanziare tutta una serie di misure, tra cui quelle anche un po' antipovertà in qualche modo, no? Come sono stati gli 80 euro per certi versi che dobbiamo rendere stabili, il Premier l'ha detto più volte, il Presidente del Consiglio l'ha detto, però insomma abbiamo provato a fare dei conti, oggi Marco Rogari te scrive su Sole 24 Ore, bisogna tagliare un po' di spesa, e più o meno 11 miliardi. Infatti ho visto questa cifra e io già temo per i miei 2 eurini lì in tasca. Ecco, e questi 2 eurini tu tienili sempre a disposizione, se no potresti anche metterli. C'è una cosa molto interessante, ma cambiamo davvero argomento e anche continente. Oggi arriva una notizia dal Brasile che non riguarda il campionato del mondo, ma riguarda invece una sorta di alternativa al Fondo Monetario Internazionale. La banca dei BRICS, New Development Bank, ma lasciamo stare insomma adesso le terminologie, il senso è che Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica danno vita, oggi c'è l'incontro dei capi di Stato in Brasile, a questa alternativa al Fondo Monetario Internazionale, anche per cercare loro di agganciare una ripresa, insomma, mentre tutto molto interessante, ma lo trovate sul Sole 24 Ore. Così come ti segnalo, tu che sei appassionato della vicenda dei POS, dei bancomat per pagare, della disponibilità del bancomat per pagare, ecco, guarda che anche l'amministratore di condominio, caro Alessandro, deve mettere a disposizione il POS. Leggi nelle pagine di norme e tributi, la pagina che come ogni martedì è dedicata al condominio e trovi anche questa indicazione. Quindi è un risvolto che forse non emergeva subito, si è parlato di più dei professionisti, ma riguarda anche gli amministratori di condominio che sono una categoria magari che non è venuta subito sotto i riflettori. Ebbene. E poi un confronto tra i candidati all'elezione di presidente per i dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, esperti contabili. Domani ci saranno le elezioni presso gli ordini, tra gli ordini per eleggere il nuovo presidente presentiamo i due candidati. Oggi sul Sole 24 Ore, una questione certamente minore rispetto a quelle che riempivano i padri, le pagine dei giornali, però importante per 115.000 professionisti e quindi la descriviamo appunto sul Sole 24 Ore. Ottimo. Ti sento, non so se ti ho risollevato un pochino. Sì, un pochino sì, sul finale. Sul finale, va bene, specialmente con la questione del post dell'amministratore di condominio, esatto, mi sembra di capire. Esatto. Questo, so che ti conforta sempre, va bene. Alessandro, a domani, traffico. Alessandro Milan, lo Jedi dell'informazione. Addirittura. Che lo sforzo sia con te. Sì, che lo sforzo della sveglia sia con me. Ancora per 8 sveglie, poi vacanze. E allora, cari italiani, parleremo anche della vicenda Galan. Si doveva votare oggi, ma Galan, come abbiamo detto ieri, è in ospedale. Frattura tibia e perone con tromboflebite, poi per il gesso stretto, problemi sanitari, quindi è stato rimandato di 2 giorni il voto, perché ha scritto lui una lettera personale alla Presidente della Camera Laura Boldrini dicendo voglio assistere al mio voto. Non si capisce però, tra 2 giorni sarà in ospedale comunque e quindi slitta il voto sull'arresto. Comunque staremo a vedere, ne parleremo oggi alle 9:05 in questo nuovo orario che ci accompagna fino ancora al 25 luglio, fino alle 9:30. Mentre problemi giudiziari per Roberto Maroni, il governatore della Lombardia, contratti irregolari, 2 per la precisione, a lui contestati per 2 collaboratrici nelle società di Expo 2015 ed Eupolis. Lui dice: sono sereno e sorpreso, indaga la procura di Busto Arsizio, racconta Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera. Sono le assunzioni, sono i 2 contratti per 2 ex collaboratrici di Maroni che hanno lavorato con lui in altri, per esempio al Ministero dell'Interno. Mara Carluccio e Maria Grazia Paturzo hanno, secondo la procura, ottenuto indebite utilità economiche consistenti in 2 contratti di consulenza, uno da 29.500 euro e uno da 5.147 euro al mese per 2 anni per Paturzo ad Expo 2015 SPA. Tra l'altro, su questo c'è una pagina di Alberto Statera su Repubblica a dire: il cerchio magico di Bobo, dal Pirellone a infrastrutture, ecco come il governatore sistemava tutte le sue pedine. È un articolo che inizia in prima pagina di Repubblica a dire: non è il primo caso di alcune nomine di persone vicine a Bobo Maroni, tanto che viene definito il cerchio magico di Maroni. Per esempio, racconta Statera, tra i primi atti ci fu la nomina di Anna Maria Tavano da Catanzaro ai vertici delle infrastrutture Lombardia, con stipendio da 186.000 euro più bonus. Questa signora sarà bravissima, ma è la moglie di Domenico Aiello, avvocato calabrese, una specie di Ghedini di Maroni, scrive Repubblica. E poi, Maria Cristina Cantù, assessore regionale al welfare, considerata vicino al cerchio magico di Maroni, e lei ha appena assunto Giulia Martinelli, compagna del neo segretario della Lega Marco Salvini. E Matteo Salvini, ovviamente, Matteo Salvini. E poi ancora: tralasceremo, scrive Repubblica, Giovanni D'Averio, in arte Johnny, e Giuseppe Rossi, in arte Gegè, musicisti del Distretto 51, cioè la band di Maroni, approdati a tutt'altro che irrilevanti incarichi nella sanità regionale. Oppure la vocalist Simona Paudice, coadiutore amministrativo esperto all'ospedale di Treviglio. Insomma, racconta, eccolo qua, il cerchietto magico. Dopo il cerchio magico di Bossi, il cerchietto magico di Bobo Maroni, questo su Repubblica. Ho grandi notizie invece su la strana coppia, bisognerebbe dire. Daniela Santanchè, che io ho avuto ospite 3 giorni fa, però ha svicolato sulla domanda per la quale oggi è su tutti i giornali la notizia ufficiale. Daniela Santanchè insieme a Paola Ferrari, conduttrice della RAI, vogliono acquistare l'Unità, giornale che è in crisi da tempo e che continua a scrivere in prima pagina con il suo CDR, cioè la rappresentanza sindacale. Ogni giorno fa una specie di terribile countdown, come dire, manca meno di un mese, se non ci saranno offerte l'Unità chiude. Ebbene, è arrivata questa offerta: Santanchè Ferrari, le amiche di destra che vogliono l'Unità. Questo è il titolo, per esempio, del Fatto Quotidiano. Quanto ci sia di serio in questa proposta, in realtà lo stesso CDR dell'Unità la bolla come una specie di boutade. Sentite cosa scrivono in prima pagina: l'avviso ai lettori, è arrivato il tempo di offerte serie, confronto con i lavoratori, basta indiscrezioni e rumors poco credibili tra pitonesse, gufi e sciacalli. Beh, la pitonessa, sapete, che è il soprannome di Daniela Santanchè. L'Unità non merita di essere stritolata in un oscuro gioco di tatticismi e operazioni mediatiche. Ieri i liquidatori hanno informato la redazione che sulla supposta offerta dell'onorevole Santanchè non ci sono novità. C'era stata una richiesta di informazione una settimana fa che è stata respinta. Oggi nulla di nuovo. E dunque questo dovrebbe essere il no, insomma, da parte dell'Unità, certamente, a dire. Anche Repubblica dedica una pagina a questo: muro anti Santanchè, irricevibile la sua proposta, dice il CDR del quotidiano fondato da Antonio Gramsci. Mentre noi parleremo di Medio Oriente, e quindi tralascio, diciamo, tutta quella che è la cronaca che trovate ancora sui giornali. Certamente vi segnalo anche sul Corriere della Sera solo un articolo: il disagio che cresce nella comunità ebraica. Si parla anche di informazione distorta, si parla anche di molte foto che circolano online che sono riferite a guerre che non c'entrano nulla con quelle di ieri e che vengono utilizzate anche come propaganda. D'altronde, quando si fa la guerra si fa la propaganda, e quando si dice, in un vecchio detto giornalistico, la prima vittima di ogni guerra è la verità. Sta di fatto che ne parleremo alle 8:15. Vi segnalo un articolo di Libero con una polemica del suo direttore Maurizio Belpietro, che lo mette in prima pagina. Difendere i Notav ci costa 10 milioni. 10 milioni di euro è ciò che finora lo Stato spende per garantire la sicurezza dei lavori. Sapete che è tutto molto rigidamente controllato con i carabinieri, le forze dell'ordine. 10 milioni di euro solo per garantire la sicurezza dei lavori. Chi li paga? Perché non li paga chi si oppone a quest'opera, visto che quest'opera è stata ritenuta legittima? Vabbè, quanto sono polemico. Chiudo con la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi è un'intera pagina di Michele Vanossi sul Giornale, dedicata a quello che è sano, ecologico e di moda, con tutti i consigli per l'uso, come fare a socializzare per questo strumento per il quale ci vuole un abbigliamento casual, ma anche l'abbigliamento glam. Stiamo parlando del picnic, signori, una pagina sul picnic, il nuovo strumento per socializzare d'estate, sul Giornale, una pagina sul picnic, il picnic.